Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Una riunione della Commissione Europea che si è prolungata oggi ben oltre il consueto, dossier complessi sul tavolo dei commissari a cominciare dal caso Polonia. C'è stata anche una lunga telefonata, oltre 45 minuti, tra il Presidente della Commissione Europea Juncker e la Premier polacca. A parlare alla fine è stato il Vicepresidente Timmermans. Today we have decided that the Commission will carry out a preliminary assessment on this matter. Avviate dunque, come prevenibile, le prime, quantomeno verifiche da parte della Commissione sulla legislazione, sulla Corte Costituzionale di Varsavia, sulla nuova normativa sui media, ma resta tesa la situazione tra Bruxelles e la Polonia. Allora ci spiega tutto, andiamo a Bruxelles da Beda Romano. Sì, buongiorno. Questa scelta della Commissione è in parte sorprendente, in parte no. È sorprendente perché il Presidente Juncker appena qualche giorno fa, la settimana scorsa, aveva assicurato che la Commissione voleva nei confronti della Polonia agire con mano leggera. Questa era più o meno l'espressione che aveva usato in quella circostanza. Oggi invece la Commissione ha deciso, bene o male, di iniziare un meccanismo per verificare la situazione dello Stato di diritto in Polonia che non è mai stato utilizzato finora. È un meccanismo nato nel 2014 e che permette alla Commissione di verificare, di toccare con mano la situazione dello Stato di diritto in un paese membro. La scelta della Commissione è interessante, probabilmente è dovuta a due elementi. Il primo elemento è che teme vi possono essere altre situazioni simili nell'Unione Europea, in particolare nell'Est Europa, ma non solo, e quindi vuole evitare di creare un precedente. E il secondo motivo è più politico. La Commissione Juncker si vuole una Commissione politica e quindi in questa circostanza utilizza proprio questa situazione controversa in Polonia per affermare il suo ruolo nell'Unione Europea. E grazie a Beda Romano. Bacchettata che arriva anche a Vienna sul fronte, in questo caso, dei migranti. Nel momento in cui l'Austria stabilisce di trasferire i rifugiati in Ungheria, incorre nel rischio di violare i diritti umani, ha detto il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa davanti alla Corte Europea, alle prese con due inchieste a carico di Vienna, inchieste aperte proprio per la decisione di mandare migranti avendoti diritto alla protezione internazionale in Ungheria. Il fronte economico, la Russia pronta a instaurare di nuovo relazioni normali con l'Unione Europea, parola del premier russo Medvedev. Sono sicuro, ha aggiunto, che le sanzioni faranno parte del passato, i rapporti torneranno alla normalità. E discussione che si apre intanto anche sul fronte dei rapporti economici con la Cina, con gli europarlamentari italiani tutti schierati. La distorsione delle condizioni di mercato, con una conseguente perdita di 3 milioni di posti di lavoro in Europa, di cui oltre 400.000 solo in Italia, è la stima del possibile impatto della concessione delle status di economia di mercato a Pechino, tema su cui si sta profilando un vero e proprio braccio di ferro tra Commissione e Parlamento europeo. Oggi prima riunione del Collegio dei Commissari su questo tema, la decisione dovrà essere presa entro il 2016. Alessandra Schepisi ha sentito Alessia Mosca, europarlamentare del PD, componente della Commissione per il Commercio Internazionale. C'è in atto proprio un braccio di ferro, nel senso che il Parlamento si è espresso nella quasi totalità dei suoi gruppi in modo netto rispetto al non automatismo della concessione del Stato di economia di mercato. La Commissione si ritrova in una situazione di imbarazzo perché il servizio legale interno alla Commissione ha un'opinione che invece si dice favorevole alla concessione. I commissari invece hanno posizioni politicamente non così unanimi, non così uniformi, e quindi è per questo che si sta definendo quale possa essere la via d'uscita. Ma secondo lei si arriverà alla concessione di questo status entro il 2016? È molto presto per dirlo. Quello che posso dire è che il Parlamento farà di tutto perché questo non avvenga. Noi stiamo quindi ad oggi dicendo che prima di prendere qualsiasi decisione noi abbiamo bisogno di avere chiari quali possono essere le conseguenze, e la Commissione quindi sta capendo se e come può darci questi elementi di valutazione. Allora ci torneremo, a cominciare dall'appuntamento con Europa 24. Vi aspetta questa sera ad Effetto Notte. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.